Essere e benessere di Nicoletta Carbone. L'amicizia, un bene non meno necessario dell'aria, del fuoco, dell'acqua. Tanto soave che se togli l'amicizia, togli il sole. Buongiorno da Nicoletta. Oggi abbiamo scomodato Erasmo da Rotterdam per introdurre il tema di oggi, l'amicizia. Secondo voi il buon Erasmo avrebbe scritto la stessa cosa se fosse vissuto ai giorni nostri? Probabilmente sì, ma si sarebbe dovuto impegnare molto. Sembra ci sia sempre meno spazio per i rapporti personali sinceri. Siamo in perenne movimento, cambiamo quartiere, lavoro, palestra, cambiamo amici. Le amicizie si creano e si frantumano, ma tutti in cuor nostro sappiamo che vivere senza amici non è possibile. La nostra vita sarebbe vuota, grigia e anche più breve. Essere circondati da amici e familiari fa vivere più a lungo, in media di 3,7 anni. L'impatto positivo sulla qualità della vita dato dall'essere circondato da amicizia e affetto equivarrebbe, secondo gli studiosi del Brigham Young University e dell'University of North Carolina, che hanno realizzato lo studio, ai benefici che si raggiungono smettendo di fumare. Le persone solitarie e con scarso sostegno sociale, si legge nella ricerca, hanno invece tassi di mortalità pari a quelli degli alcolisti e superiori a quelli causati da obesità e sedentarietà. Dal punto di vista psicologico, ricevere il sostegno di parenti e amici può aiutare a riflettere sui problemi, in modo tale da diminuirne la gravità percepita, o addirittura in modo da renderli non problemi. È in linea con noi il responsabile editoriale di un portale amico di Essere Benessere, Salute 24. In linea con noi infatti abbiamo Salvatore Patriarca. Ciao Salvatore. Ciao Nicoletta, ciao a tutti i radioascoltatori. Salvatore, chi trova un amico trova un tesoro. Sì, trovo un tesoro e trova anche la salute, potremmo dire, perché appunto, come abbiamo letto in questa ricerca che ha analizzato ben 300.000 persone, avere tanti amici, essere circondati da persone che ci fanno stare meglio è come se ci permettesse di guadagnare circa quattro anni di vita in più e di vivere in una maniera più tranquilla. Quindi se abbiamo degli amici teniamoceli stretti. Assolutamente sì, anche perché poi faccio un altro esempio molto interessante sull'importanza dell'amicizia, perché quando si viene traditi da un amico, il tradimento di un amico è peggiore di quello del tradimento del partner. Questo sì, l'ho letto anch'io su Salute 24, si perdona più facilmente al partner, ma l'amico che ti tradisce è dura, non lo recuperi non più. Non si riesce, non no. Si riesce. Ha un effetto emotivo più devastante il tradimento dell'amico che non quello del partner. Salvatore, su quanti amici conti tu? Perché anche il numero degli amici è stato indagato dalle ricerche. Io direi un 5. Perché il numero considerato ottimale è tra i 5 e i 10, ecco, quindi tu sei in una buona media. Quasi nella media. Quasi nella allora. Media, poi facciamoci amici io e te, che così abbiamo un amico in più, Così arrivi a 6. Grazie a Salvatore Patriarca per essere stato con noi, buona giornata. Ciao Nicoletta, grazie, a presto. Perché l'agonismo che è dentro di noi non diventi egoismo, di frattura mai. Difendiamo ogni istante la nostra realtà. Sono certo, ci credo e così sarà. Pericoli tanti e tante gelosie, rabbia, impazienza, piccole manie. Ti manderò all'inferno e così farai tu. Saremo poi amici ancora di più, un po' più alto, una spanna in su. Tu sei il mio amico carissimo, non tradirmi mai, né soldi, né donne, né politica potranno dividerci. E di amici carissimi e di amici che abbiamo pensato tali parliamo oggi insieme a Francesco Aquilar, psicologo, psicoterapeuta cognitivista, autore di 12 volumi di psicologia e psicoterapia cognitiva, ultimo dei quali è Psicoterapia cognitiva della depressione, curato con Maria Pia Pugliese ed edito dalla Franco Angeli. Buongiorno dottor Aquilar, bentornato. Buongiorno, ciao Nicoletta, saluto anche tutti i nostri ascoltatori. L'amicizia non solo ci aiuta nelle cose che sono state dette prima da Salvatore Patriarca, ma svolge anche una funzione, tra virgolette, psicoterapeutica, perché ci protegge dalla depressione, ci riduce la quantità di disturbi psicosomatici e ci aiuta nei disturbi somatopsichici, cioè quando abbiamo una malattia la fronteggiamo meglio se abbiamo delle amicizie. Io proporrei di lanciare anche qualche altra domanda ai nostri ascoltatori. Per esempio, come selezioniamo le persone con cui diventare eventualmente amici? Come diventiamo intimi nell'amicizia? E soprattutto, abbiamo dei veri amici? Questa è una domanda da mille punti, eh? Certo. E d'altronde, dottor Aquila, l'amicizia è una cosa che abbiamo tutti sotto gli occhi, ma quando si cerca di definirla, di dire abbiamo veramente degli amici e di capire che cosa sia, effettivamente la cosa ci scappa un po' dalle mani. Questo forse perché siamo un po' analfabeti in campo di affetti e legami. Allora proviamo a farci ispirare dalla nostra Vox Populi. Una persona che ti vuole un po' bene. Un amico, quello che ti puoi confidare. Se ne trovano pochi di amici veri. Io ne ho qualcuno, ma pochi. Ho un amico che mi aiuta quando mi sento in difficoltà, quando ho problemi. Non è una domanda molto facile, anche perché l'amicizia vera e propria non esiste. Per me il vero amico ne ho avuto uno una volta e basta. Penso che tenerlo... Si deve tenere tanto a un amico, come un fratello, come qualcosa di speciale. E l'amico è una persona schietta come te. E in linea con noi abbiamo Giuseppina, un'amica. Grazie, buongiorno a voi. Allora, io dicevo alla sua collaboratrice, di amiche ne ho due, ma forse in verità è una sola. Perché una l'ho conosciuta quando ho cominciato l'università, quindi avevo già 19 anni. La prima invece l'ho conosciuta all'età di 9 anni, quindi ormai ne ho qualcuno in più, è un bel tratto di vita insieme. E sicuramente l'amica è con la maiuscola. E bisogna forse fare una differenza fra quello che solitamente si intende per conoscersi, è una conoscenza, piuttosto che l'amico, perché sicuramente sono due... Ma che cosa di diverso l'amico dal conoscente? Perché si possono anche conoscere persone da anni, eh? Abbiamo conoscenti di lunga data. Che cosa è che fa scattare, come chiedeva il dottor Aquila, l'intimità? Sì, fa scattare l'intimità, fa scattare sicuramente un percorso di vita, la condivisione di momenti piacevoli, momenti più dolorosi e soprattutto il non accavallare le due vite. In questo senso, ora mi spiego magari meglio. Ciascuna di noi ha fatto il proprio percorso, continua a fare il proprio percorso, sì. E anche in maniera totalmente diversa, però... abbiamo dei punti in comune, dei punti di riferimento, siamo un punto di riferimento l'una per l'altra e nessuna delle due cerca di scavalcare, imporsi sull'altra. Esatto, rispettando le Giuseppina, scelte. Mi saluti le sue due amiche, l'amica di serie A, quella che lei considera proprio amica amica, e quella che sta forse sta perdendo la connotazione di amica. Giorgio ci scrive: l'amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo ti vuol bene. Un amico non tradisce, mi scrive un ascoltatore anonimo, una frase di King: gli amici entrano ed escono dalla propria vita come camerieri in una sala di ristorante. Dottor Aquilar, qui abbiamo bisogno di lei. Ma questi non sono amici quelli che entrano ed escono, nel senso che l'amicizia svolge una funzione molto importante, ma come tutte le cose preziose è costosa. Eh sì. Altre volte abbiamo parlato anche in trasmissione tra di noi sulle regole del rapporto di coppia, che sono difficili e costano fatica. Lo stesso vale per le regole dell'amicizia, che costano fatica. Se noi vogliamo dare importanza ad una cosa che ci aiuterà, dobbiamo essere disposti a seguirne le regole, e in questo senso potremo valutarne alcune. Perché nei tempi recenti sono state definite dalla teoria e dalla ricerca cognitivistica clinica e sociale numerose regole dell'amicizia. Ce ne sono addirittura 17. Io ne le propongo alcune e lei me le commenta. Aiuto. Perfetto. La prima regola è aiuto volontario in caso di bisogno. Ecco, infatti aiuto volontario in caso di bisogno, è molto importante questo. Invece quello che succede nella maggioranza dei casi è che io chiedo aiuto disperatamente e fanno finta di non sentire o passano ad altro, oppure il finto amico che mi chiede come stai e mentre io sto rispondendo già sta chiedendo ad un altro come stai, quello non va bene. Rispetto della privacy dell'amico. Questo significa non invadere la vita degli altri, non bussare a citofono a ogni ora del giorno e della notte, non essere sommersi dal proprio egocentrismo cognitivo per il quale andiamo a rompere la vita di quello che vorremmo come amico, naturalmente ne saremo esclusi. Conservare per sé le confidenze ricevute, questa è una regola quando uno dice no, è costosa, è impegnativa l'amicizia. Bisogna... Non solo, ma poi di questi tempi con internet io racconto il segreto a quello che voglio che sia il mio amico e il mio amico me lo pubblica su Facebook e il giorno dopo 5.000 persone sanno tutto quello che è successo. È diventato pericolosissimo da questo punto di vista lo sviluppo di internet. Sincerità e fiducia reciproca. E anche qua gli psicologi come sempre stanno molto attenti alle parole. Molte persone che sono incapaci, diciamo, di portare avanti un'amicizia soddisfacente chiedono all'altro la sincerità e la fiducia, ma loro hanno sempre una giustificazione morale per la quale eccezionalmente non sono stati né sinceri né fiduciosi e naturalmente questo rende impossibile lo sviluppo dell'amicizia. Sostituire l'amico, dice una regola, come se fosse lui o lei in sua assenza. Questa pure è molto importante, che non significa andare a letto con la moglie dell'amico per sostituirlo quando lui sta fuori per lavoro, significa invece prendersi la responsabilità di agire come lui o lei avrebbe fatto nel caso in cui quella persona non c'è. Noi abbiamo tutti delle esperienze invece di candidati amici con cui i rapporti sono falliti perché avevano interpretato malissimo questa regola. Non criticare l'amico in pubblico. Anche qua è difficile perché a volte ci viene una voglia tremenda di fare una battuta sui difetti dell'amico e sul momento abbiamo anche un attimo di gloria con quei 4 o 5 che ci stanno facendo da uditori in quel momento, ma invece tocca non criticarlo mai in pubblico, altrimenti lo mettiamo in difficoltà e lui deve essere sicuro di non avere la nostra critica. Mostrare supporto emotivo, questa è la settima regola dell'amicizia. Non soltanto dobbiamo avere la consapevolezza di voler dare supporto emotivo all'altro, ma dobbiamo mostrarlo, perché non è che l'amico ci può leggere nella mente, dobbiamo non avere vergogna di dimostrare esplicitamente con parole e con gesti che siamo disposti davvero ad ascoltarlo, che è una cosa molto difficile nella società della comunicazione dove tutti parlano e nessuno ascolta, ed essere in grado di non aver vergogna di mostrare questa nostra disponibilità. C'è una regola che mi piace in modo particolare, è guardarlo negli occhi durante la conversazione. Non ci guardiamo più negli occhi. Assolutamente sì, perché Carmela Lauricella occhi... che in regia mi sta sbarrando tanto d'occhi per dire io ti guardo, anch'io ti tengo d'occhio. Mi scusi, dottor Aquilar. Meno male, ci dobbiamo guardare, ma non per controllarci, semplicemente perché la comunicazione non verbale è quasi il 70% di quello che ci diciamo e le cose cambiano dette con uno sguardo anziché con un altro. E invece ci sono non solo le persone che hanno continuamente uno sguardo sfuggente perché hanno paura di lasciar trapelare le loro emozioni, ma ci sono anche quelli che guardano continuamente in alto come se loro parlassero solo con Dio, perché nessun altro è degno di avere la loro attenzione e questo ovviamente non va bene. Andrei a sentire che cosa ci vuole raccontare Gianmarco, che ci chiama dalla provincia di Vicenza, e poi continueremo con le nostre regole dell'amicizia. Gianmario, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, buona giornata. E allora io voglio parlare su questo discorso perché mi è successo recentemente un aneddoto un po' strano. In pratica, qual è la persona che io cerco quando ho delle paure che mi succede qualcosa? È sempre un amico che cerco. Cerco questo amico perché magari mi è successo qualcosa con la mia ragazza, con la mia fidanzata, mi sono lasciato questo o quell'altro, va bene, cerco l'amico, gliene parlo, gli dico così. Passa magari un mese o due che io sto lontano dalla mia ragazza perché i problemi ci sono in effetti, no? Sì. E questo mio amico mi è vicino. Dal giorno che poi io per la disperazione ricerco ancora la mia compagna, questo amico mi dice: tu mi hai preso in giro e tu non fai le cose che ti dico, poi vieni a piangere da me, vero Gianmario, che dicono così? Ecco. Però io penso che l'amico sia quella persona, sia quella cosa così intima dentro di te che ti debba lasciare le sue scelte, primo. E seconda cosa, al limite potrebbe, non so, dirti: guarda, che forse sbagli, capito? Però le scelte sono le tue, quello è un dare consigli. Ma addirittura un amico che ti dice: cancella il mio numero perché non fai quello che ti dico, dottor Aquila ha ragione Gianmario. Ma certo, non va bene. Non va bene. Cancelliamo quell'amico lì, via. Un altro. Deve dare supporto emotivo. Bisogna anche dire che in casi diversi, non nel caso del nostro ascoltatore Gianmario, ma in altri casi, dipende anche dall'intensità, dalla frequenza e dalla durata con la quale una persona chiede aiuto, perché ci sono davvero alcuni che chiedono aiuto 24 ore al giorno con grande intensità e non fanno assolutamente nulla, non solo l'azione generale, tipo in questo caso smettere di frequentare quella ragazza, ma non fanno nulla che deriva da quella conversazione. In questo caso è una richiesta di ascolto egocentrico e l'altra persona fa bene a tagliarlo. Salvatore da Vicenza, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, mi ha fatto prendere uno spavento stamattina, perché io non rientro nella media dai 5 ai 10 amici. Ma lo dicono le ricerche, io ne ho di meno, per cui... No, le spiego il perché io praticamente 15 anni fa circa mi sono trasferito da Napoli a Vicenza per lavoro, sì. E quindi a Napoli avevo 10-15 amici, ma amici del cuore. Qua sono riuscito a farne uno, due, tre, voglio dire, no? Beh, però come la mettiamo? Ecco, però Salvatore, lei è da poco che vive a Vicenza. Quanti anni ha vissuto a Napoli? Ho vissuto circa 30 anni. E da a Vicenza? Una quindicina. Guardi, in 15 anni se ne è già fatto uno o due, sta andando bene. Dottor Aquilar. No, la paura era i 3 anni in meno di vita. No, basta averne. Sui 3 anni, i 3 anni ce li assicura anche un'amicizia con una persona sola. Dottor Aquilar. Comunque sono d'accordo con Salvatore, sono d'accordo perché le ricerche ci dicono che le amicizie sono diverse a seconda del contesto antropologico-culturale nel quale si formano e che sono diverse, come dire, le modalità attraverso le quali si imposta e si mantiene l'amicizia anche nella stessa nazione e a volte anche nella stessa regione geografica. Io sono napoletano come Salvatore e mi rendo conto che i criteri dell'amicizia che antropologicamente si gestiscono a Napoli sono fortemente diversi da quelli del Veneto. Quindi servirà che Salvatore impari meglio l'antropologia culturale della sua nuova città e a quel punto diventerà facilissimo per lui fare amicizia, anche perché come napoletani siamo leggermente più bravi, c'è una cultura più millenaria su questo. Beh, dottor Aquila, questa è un po' di parte, no? Certo, cioè... assolutamente. gliela passo perché siamo amici. In linea con noi abbiamo il dottor Attilio Speciani, un amico di Essere Benessere, oltre che un esperto del Daily Lab e specialista in allergologia e immunologia clinica. Dottor Speciani. Qui è più facile, per cui ad esempio quando abbiamo bisogno di concentrazione, ecco là, intanto magari lì abbiamo da togliere qualche nemico di torno, no? Per cui gli alimenti fermentati, quelli zuccherini, che apparentemente ti danno un beneficio immediato, poi in realtà ti portano subito ad un calo di forza, ad un calo questi di energia. Sono dei falsi amici, quindi vino, zucchero, dolci, il pane eccetera sono meglio tenervi da parte, mentre il cioccolato amaro, spendiamo una parola di gioia per il cioccolato, però non quello troppo dolce, noci, mandorle, semi oleosi, kiwi, le uova sono fantastiche da questo punto di vista, dentro nel rosso ci sono delle cose ottime per la concentrazione, e bilanciamo per favore la parte integrale bene. Ecco, una notazione sul caffè: il caffè aiuta la concentrazione, mentre il tè aumenta invece la percezione delle cose, per cui proprio la concentrazione, il caffè ce lo usiamo senza zucchero, rigorosamente amaro. Poi abbiamo altri amici, non so, abbiamo bisogno magari un amico ci ha deluso e noi vogliamo tenere un po' alto l'umore. Allora lì intanto abbiamo il tè, ci è di aiuto sicuramente perché ci aiuta a comprendere magari quali sono stati i nostri di errori e non quelli dell'amico, che di solito siamo tesi a riflettere sempre solo sugli altri, no? E però lì abbiamo ancora il cioccolato, quello buono, che ci si giusta. Se posso dire alcuni elementi per aiutare l'umore, su cui abbiamo il pesce, proprio gli omega 3 presenti nel pesce sono fantastici, la gente non se ne rende conto, ma aiuta realmente un apporto giusto e adeguato di omega 3, dice: ma cosa faccio? Mi mangio un salmone a metà pomeriggio? fallo, vedrai che ti passa. No, e si trova, e si trovano anche nei pesci poveri, anche nei pesci surgelati. Sì, infatti. Perché tutte le volte che parliamo di pesci, alcuni ascoltatori mi scrivono: ma Nicoletta, dove vive? I pesci costano tanto. Io mangio le acciughe, costano poco. O prendo anche il pesce surgelato, e non sempre bisogna prendere dei pesci costosissimi. No, quindi... io ad esempio utilizzo, mi faccio i filettini di merluzzo, quelli da fare surgelati, che sono buoni perché sono messi via subito e quindi conservano e ferme. E l'umore tu. Ottimo, perfetto, con un velo d'olio, un po' di origano, un pelo di peperoncino, direi che l'umore torna su. Senta, quindi... dottor Speciani, ci fa un invece per possiamo scegliere magari alcuni alimenti per avere una pelle bellissima, che quella anche aiuta nelle relazioni, no? Avere un colorito luminoso, disteso. Aiuta su qui, davvero, abbiamo l'apporto della vitamina D, ad esempio. E ancora, una delle cose che è stata tolta in modo ancora ci offende, che è il tuorlo d'uovo. Io conosco una ricetta, la facevo quando ero piccolino e ho imparato a farla ai miei figli. Il tuorlo d'uovo, quindi crudo, con un velo d'olio, che quindi torniamo a migliorare la pelle, e poi un po' di pane integrale sbriciolato, dopo averlo appena passato a tostare magari, insieme con uno spruzzo di limone. Grazie, dottor Speciani. A voi tutti, un abbraccio e buongiorno. Alessio, buongiorno da Trento. Buongiorno Nicoletta e saluti anche ai suoi ospiti. E io volevo raccontare brevemente la mia esperienza personale. Premetto che io credo ancora comunque nell'importanza e nel valore dell'amicizia e condivido pienamente il pensiero del suo ospite di prima, dove è difficile, molto difficile, riuscire a perdonare un amico, mentre è più facile sicuramente perdonare o dimenticare comunque una compagna. Sì. Ecco, io ho avuto un 2010 piuttosto pesante a livello personale, ricco di successi a livello professionale, ma a livello personale è stato un disastro. In pochi mesi mi è crollato il mondo addosso, sono riuscito a perdere non solo quello che credevo un grande amico, che ho portato anche in famiglia e gli ho presentato il mondo che conoscevo io, ma anche una compagna da quasi 5 anni, oltre a un bellissimo cane che amavo e altri aspetti relativamente economici e quant'altro, ma che non sto qua a definire. E tutto questo l'ho scoperto il giorno del mio compleanno, che come regalo quello che credevo un mio grande amico è venuto a darmi questa bella notizia, dicendomi che sostanzialmente era da mesi che faceva delle brutte cose, o belle per lui sicuramente, con quella che era la mia compagna da 5 anni. E mi creda che per me è stato veramente che sì. Ancora da ascoltare, digerire questa cosa. E lo credo, Alessio. Un mattone incredibile. Questo un po'... Dottor Aquilar, è una storia dolorosa, cioè già a sentirla raccontare ci si immedesima e dice: io che cosa avrei fatto? È una storia molto dolorosa, e perché c'è un doppio tradimento, naturalmente. Sì. C'è il tradimento dell'amico e c'è il tradimento della compagna, anche se purtroppo è abbastanza frequente, e c'è anche una ragione. Non ce lo dica così. E c'è anche una ragione, perché gli amici si assomigliano. E quindi naturalmente quando si parla di situazioni nelle quali c'è un tradimento col migliore amico o con la migliore amica, è perché quello lì assomiglia al nostro partner o alla nostra partner, però noi conoscendolo di meno non ne conosciamo i difetti, quindi riusciamo a vederne le cose buone, ma abbiamo meno confidenza con le cose brutte. Il vantaggio che se ne può trarre è che tutto sommato le due relazioni non erano soddisfacenti malgrado l'apparenza, e che un evento doloroso del genere ci aiuta a poter differenziare meglio le persone con le quali stabilire le relazioni e probabilmente a trovare qualcuno che sia più simile a noi con cui costruirla. Per cui dopo una normale fase dolorosa c'è un vantaggio. In qualche modo abbiamo la possibilità di metterci in relazione con persone che ci assomigliano di più e che quindi mantengono quella sincerità e fiducia che sono indispensabili sia nell'amicizia sia nell'amore romantico. E adesso ci fermiamo un attimo e poi torniamo subito dopo insieme. Essere e benessere. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici? Perché no? Beh, ecco, e guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo. No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente. Non è così. Sì, invece. No, invece. Sì, invece. Tu credi che sia così? Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene? No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te. Non è vero. È vero. Non è vero. È vero. E come lo sai? Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto. Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente? No, di norma vuole farsi anche quello. Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico. Ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni ho sconosciuta. Dottor Aquilar, torniamo agli amici in carne e ossa, eh? E ce ne sono tanti al telefono che vogliono parlare con lei, con noi, condividere le loro esperienze, ma questo nelle regole dell'amicizia non c'è scritto se uno deve scegliersi amici dello stesso sesso o no. Ma c'è scritto però nelle ricerche che l'amicizia tra sessi diversi pone problemi particolari, naturalmente. E c'è un proverbio americano che lo spiega bene, che dice: non c'è niente che faccia più male al sesso dell'amicizia e non c'è niente che faccia più male all'amicizia del sesso. Quindi già con questa regola generale poi possiamo aggiungiamo le perché conseguenze. Noi, ecco, alle 17 ne aggiungiamo questa, no, questa postilla. Certo. Francesco da Modena, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo portare, diciamo, una domanda al dottore, se è possibile. Praticamente mi è capitato nella mia vita di avere amicizie in cui non facevamo nient'altro che stare insieme 24 ore al giorno, poi subentrava una donna, l'amico perde la testa e a quel punto lì sparisce dalla vita completamente per 4-5 anni, non si fa sentire. E gli amici si lamentano e lui dice a lei: i miei amici mi dicono che non sto con loro, allora nella coppia si litiga. Insomma, Francesco, questa è una storia che si ripete. Tutte le volte che si formano delle coppie nuove si devono mettere in conto gli amici che vengono trascurati, che quindi si lamentano, uno un po' si sente in colpa. Dottor Aquilar? Va bene così. È obbligatorio, l'amicizia ha delle qualità spettacolari, per esempio è una delle pochissime cose nelle quali una volta instaurata, anche se noi non la nutriamo più, in moltissimi casi si mantiene nel tempo trasversalmente e quindi dovremmo considerare questo come una fase legittima. Il problema è che spesso quelli che vengono tra virgolette abbandonati perché uno degli amici dedica 4-5 anni ad un'immersione totale in una relazione romantica, si offendono e se ne risentono. Invece noi dovremmo abituarci a considerarla come una cosa normale. Cosa saranno mai 5 anni rispetto alla lunghezza di una vita? E quindi lasciare aperta la porta, perché prima o poi l'amico tornerà a trovarci e ha soltanto dovuto svolgere una cosa che richiedeva per lui tutta la sua attenzione. Alessandro da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Sento molti ascoltatori che hanno problematiche simili alla mia. Cerco di spiegarmi rapidissimamente. Sì. Allora, anch'io nei momenti di grande difficoltà, come quella che sto vivendo in questi giorni, fine di una storia d'amore importante a cui credevo e volevo ancora credere, mi rivolgevo sempre agli amici per un conforto, per una parola, per un po' di insulti, per farmi dire quanto scemo sono e tutte queste cose. Sono tutte cose che aiutano, vero? Tutte cose che aiutano. Mi chiedo se questo ricorso che io faccio regolarmente è una debolezza che dovrei evitare oppure l'amico c'è lì per quello Alessandro anche se mi dice che mi spacca le gambe. Alessandro, non ci sono solo per quello, per raccoglierci quando siamo a pezzi. La questione in ballo è un'altra, è che quando noi abbiamo un problema di relazione, per esempio in questo caso di relazione romantica, noi abbiamo la sensazione di essere indegni di amore. Quello che ci consentono gli amici invece è di sentirci degni di amore malgrado i nostri difetti, e questo è il motivo che c'è dietro questa azione continua che tutti facciamo di andare dai nostri amici quando abbiamo avuto una difficoltà. Però la tecnologia, dottor Aquilar, insomma, ci sta cambiando le nostre relazioni, non solamente quelle dei ragazzi con i professori, ma ormai gli amici si nascono anche e crescono, poi sì, le amicizie si interrompono anche su Facebook. Aggiunge o toglie secondo lei? E dunque dipende, come al solito, internet e Facebook sono uno strumento, è come un bisturi, io posso utilizzarlo per fare un'operazione chirurgica e salvare la vita di una persona, oppure posso accoltellare con lo stesso bisturi di una persona ed ammazzarlo. Quindi come strumento è neutro. Dobbiamo stare molto attenti ad utilizzarlo e dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, ai nostri figli, a quelli più giovani a difendersi da alcuni rischi di un'utilizzazione selvaggia dello strumento e dobbiamo usare un grano di sale nell'utilizzazione. La tecnologia però sappiamo che può anche farci stare bene, diventa amica del nostro benessere. Ho chiesto aiuto ad Enrico Pagliarini, ciao! Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, caro Enrico. Che cosa possiamo prendere dalla tecnologia per stare bene, per farci la tecnologia amica? Guarda, un sacco di cose molto divertenti. Allora, diciamo subito che c'è un fenomeno vastissimo che sta cambiando moltissime cose, che si chiama e-health. Avete presente l'e-commerce, quindi il commercio elettronico? È che in questo caso la salute con la e davanti diventa la salute digitale. E c'è un altro fenomeno che si chiama M, con la M di mobile, che coinvolge gli smartphone e si possono fare un sacco di cose. Allora, ci sono moltissime applicazioni per controllare il peso, la nostra dieta, come dormiamo, ci sono dei programmi che tentano di svegliarci nel momento migliore rispettando le fasi del sonno. Ci sono dei programmi che ci aiutano a fare ginnastica, che ci impostano il programma della giornata, ma forse la cosa più bella e interessante che oramai ci sono un sacco di apparecchi fisici, proprio degli strumenti che si collegano con lo smartphone. Faccio un esempio anche molto recente, c'è stato anche notizie di cronaca recente, una scarpa da ginnastica con un chip che misura la distanza che percorriamo, il numero di scatti che facciamo, la velocità massima che raggiungiamo, e tutte queste cose poi sono collegate con lo smartphone, quindi noi poi andiamo a casa, magari sul computer scarichiamo i nostri dati o anche sullo stesso telefonino e vediamo quanta strada abbiamo fatto, se siamo andati veloci, siamo andati lenti. Adesso va molto di moda un braccialetto elettronico che lo si indossa anche, bello, è carino. Sì, è anche bello, poi qua va a gusti, però è un braccialetto che ha dei sensori, ad esempio un accelerometro, e in base all'impostazione che noi diamo ad un certo punto della giornata magari ci dice muoviti, cioè ce lo dice poi lo smartphone perché il braccialetto è collegato con lo smartphone, ci dice muoviti, oppure addirittura il braccialetto vibra e questo vuol dire che ci dobbiamo muovere perché siamo stati seduti un po' troppo, ma fa un sacco di altre cose. Ci sono cose anche un po' più serie, ci sono degli strumenti per misurare la pressione che si collegano allo smartphone. Insomma, quindi. E poi noi ci facciamo dire tutte queste cose e non ci lamentiamo neanche, perché se ce li dicesse un amico diremmo ma sempre mi devi dire così. Sì. Invece vedi che la tecnologia ci seduce. Voi parlavate di Facebook e di social network, molte di queste cose si possono poi addirittura condividere sui social network, quindi ci sono delle comunità di persone che condividono questi dati e magari si scambiano delle esperienze o dei consigli, insomma ci sono anche delle sorte di gare. Senti, ma tu scusami, quel braccialettino lì ce l'hai? Non ce l'ho, ormai l'ho visto. Cioè, no, perché mi hai fatto venire la curiosità, vorrei, tu non porti i braccialetti adesso che mi ricordo. Così Porto nemmeno l'orologio. Ma ormai un uomo tecnologico come te. Grazie ad Enrico Pagliarini per essere stato con noi. Vorrei chiudere con Riccardo che ci chiama da Andria, vediamo se ci dà un'altra regola di amicizia. Siamo in chiusurissima, Riccardo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo fare una confidenza. Io da un po' di anni c'ho un amico, no? Che ci frequentiamo con un bel gruppetto, così. Sai, in base agli umori ci siamo anche confidati, sono rimaste fra di noi le stesse cose che ci confidavamo. Insomma, ci piace questo. Però, Riccardo, venendo al dunque... Niente, lui mi aveva detto che aveva un'amica che frequentava, la cosa è rimasta fra di noi, solo che ora mi ha rivelato che questa amica è un'amica del gruppo, solo che è arrivata al punto che ormai lo sappiamo tutti, cioè un vero amico me lo doveva dire una cosa del genere sin dal primo giorno, o sbaglio? Chiediamo all'esperto, dottor Aquila, abbiamo 30 secondi, talvolta ci sentiamo traditi dal silenzio di un amico, ma come? Sì, sei mio amico? Sì e no, perché a volte la vergogna è troppo forte,